البلاد طردوا الأجداد. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا لنا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا لنا قانون دولي يا قانون، العدالي شفنا ولا سلام. Buongiorno Palestina. Oggi vogliamo innanzitutto condividere la gioia del popolo cileno per il successo del plebiscito tenutosi domenica scorsa in Cile, dove vivono circa 500.000 palestinesi. Plebiscito che ha sancito una nuova costituzione e che cancella finalmente quella del dittatore Pinochet. Grande felicità anche per la comunità cilena fiorentina. Per la nostra rubrica Mondo Giovani, la scorsa settimana abbiamo ascoltato una ricercatrice italiana, cofondatrice di un progetto, Yalla Project, che a Nablus ha costituito un'impresa collettiva a forte vocazione sociale. Oggi continuiamo ad ascoltare le voci dei giovani, questa volta giovani palestinesi di seconda generazione, che in Italia si sono costituiti in un'associazione dal nome Giovani Palestinesi d'Italia, che raggruppa circa 150 giovani che vivono in varie parti della nostra penisola. Ai nostri microfoni oggi abbiamo Dalia e Karim, che ci parleranno di loro stessi, delle loro attività, di come vedono la situazione palestinese rispetto alle generazioni precedenti. Questo subito dopo la selezione stampa a cura di Amicizia Italo-Palestinese. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que va a triunfar, avanzan ya banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá, de pie marchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad, y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad. Ciao, sono Marina e vi parlo degli articoli che abbiamo scelto per questa settimana e che potete leggere per intero ed in italiano sul sito dell'Associazione di Amicizia Italo-Palestinese. Il primo articolo è una riflessione di Ramzi Baroud su l'Unione Europea. È qualificata per negoziare la pace tra Israele e Palestina? Mentre Washington è apertamente filo-israeliana, l'Unione Europea ha giocato un gioco più intelligente: vendere parole vuote ai palestinesi e vendere armi letali ad Israele. Non solo l'Unione Europea non è riuscita a ritenere Israele responsabile dell'occupazione e di tutte le violazioni dei diritti umani che sta facendo, ma sta praticamente anche finanziandolo, importando ed esportando armi e come principale partner commerciale. Infatti, un terzo delle esportazioni di Israele vengono in Europa, mentre l'Unione Europea contribuisce con il 40% alle importazioni totali di Israele. E questi numeri includono anche prodotti realizzati in insediamenti ebraici illegali. A proposito di importazione ed esportazione di armi, il secondo articolo riguarda il fatto che i cannoni italiani verranno installati sulle nuove navi da guerra israeliane. Questo è un articolo di Antonio Mazzeo, preso dalla rivista Contropiano. saranno armate con cannoni made in Italy le nuove unità da guerra destinate alla Marina Militare israeliana. Questi cannoni di cui si parla appunto sono stati realizzati nella Oto Melara, nota fabbrica di armamenti con sede alla Spezia, interamente controllata dal gruppo Leonardo Finmeccanica. Il terzo articolo invece è del Middle East Monitor, tradotto dall'ISM. Paradiso perduto, come Israele ha trasformato la Cisgiordania in una discarica di acque reflue a causa dei suoi insediamenti. Le acque reflue non trattate hanno distrutto il suolo dei villaggi palestinesi, causando spesso la morte di ulivi secolari e la conseguente perdita di mezzi di sussistenza. Nell'articolo viene intervistato Abdullah, che vive in un villaggio nella provincia di Salfit, che è nella parte nord della Cisgiordania. Lui dice che una volta la sua terra era un paradiso, oggi è diventata una palude di acque reflue a causa appunto delle acque reflue che fuoriescono da un insediamento nelle vicinanze. Gli insediamenti israeliani illegali scaricano ogni anno milioni di metri cubi di acque reflue in Cisgiordania e queste fluiscono nelle valli e soprattutto nei terreni agricoli. I residenti e gli agricoltori hanno paura di perdere ancora più terreno agricolo a favore degli insediamenti. Infatti, a causa della crescente quantità di acque reflue che vengono pompate nei loro terreni e dei conseguenti danni agli olivi, questi terreni potrebbero essere requisiti per fare degli insediamenti perché ormai ritenuti non più produttivi. Il quarto articolo è di una giornalista freelance spagnola, Marta Saiz, tradotto da Invicta Palestina. Prendersi cura della terra per prendersi cura della vita. La resistenza delle donne rurali in Palestina. Il lavoro delle contadine come attivismo contro le politiche sioniste. Nell'articolo si parla di Karameh Ahmad, che vive in un villaggio a 50 km da Ramallah, e che ha fondato una cooperativa agricola nel 2007, anche se l'attività di questa cooperativa è iniziata solo 5 anni fa. Lei dice che non è stato facile perché non solo ha riunito un gruppo di donne, ma ha dovuto anche sensibilizzare la società e le stesse donne sull'importanza di essere indipendenti e di lavorare la terra come parte dell'identità palestinese. Dice: è stato un atto rivoluzionario, partendo da qui abbiamo cambiato la società, ci siamo unite per mantenere vive la vita e la cultura. Come tante donne, durante la prima intifada Ahmad aveva dovuto supportare da sola il peso dell'intera famiglia, perché il marito era stato imprigionato e successivamente assassinato, e così aveva pensato ai possibili modi per resistere all'occupazione. Ora con la cooperativa fornisce alle donne risorse e mezzi di sussistenza con un impatto positivo sull'economia familiare. Il quinto articolo da Euromed Monitor, Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, tradotto da Invicta Palestina. Gli Emirati Arabi Uniti investono nel potenziamento dei posti di blocco israeliani. Gli investimenti degli Emirati Arabi Uniti per migliorare i posti di blocco israeliani rafforzano solo l'occupazione. Allora, sembra che i governi di Stati Uniti, Israele e degli Emirati Arabi creeranno un fondo di investimento da circa 3 miliardi di dollari che cercherà di promuovere investimenti privati in Israele, Cisgiordania e altrove in Medio Oriente e Nord Africa. Il punto è che le priorità principali di questo fondo sarebbero il potenziamento e l'ammodernamento dei checkpoint di sicurezza israeliani nella Cisgiordania occupata. Passiamo infine al sesto articolo preso dal The Palestine Information Center e riguarda il massacro di Kibia. Il massacro di Kibia 67 anni dopo. In questo articolo si parla di uno dei massacri israeliani contro il popolo palestinese avvenuto il 14 ottobre del 1953. In quella data, due unità militari israeliane guidate dal criminale di guerra Ariel Sharon assediarono il villaggio di Kibia, appunto, lo isolarono dal resto dei villaggi vicini, iniziarono a bombardarlo con i mortai, lo presero d'assalto, fecero irruzione nelle case. In questo massacro sono morti 67 civili palestinesi, ci sono stati decine di feriti, decine di case bombardate e fatte saltare in aria. Con questo è tutto. Oggi ai nostri microfoni abbiamo due rappresentanti di giovani palestinesi d'Italia, Daria e Karim. Andando a consultare il loro sito Facebook si possono avere una serie di informazioni sulla Palestina e farci un'idea sulle loro molteplici attività. Ma ascoltiamo da loro e in particolare da Karim. Buongiorno Karim. Buongiorno, buongiorno. Allora, vorremmo sapere chi siete innanzitutto, quali sono le vostre professioni, come è stato che vi siete costituiti in associazione? Sì. Innanzitutto ringrazio per l'opportunità a nome di tutto il gruppo Giovani Palestinesi d'Italia e saluto tutti gli ascoltatori. Giovani Palestinesi d'Italia, GPI, è un'associazione che nasce intorno al 2016. Siamo formati per lo più da giovani che vanno insomma dai 18 anni, 16 anni fino ai 30-35 anni di sangue palestinese, quindi puramente palestinesi o italo-palestinesi. Siamo la seconda delle nuove generazioni dei palestinesi qui in Italia, che sono immigrati qui in Italia. Il nostro gruppo si fonda a seguito, diciamo così, dello sfaldamento di quello che era il GUPS, che era il gruppo studentesco dei palestinesi qui in Italia, che si è sciolto intorno agli anni 90. Insomma, abbiamo raccolto, tra virgolette, il testimone, cercando, come possiamo, di testimoniare e di raccontare quella che è la Palestina, quella che è la causa palestinese, i colori, i costumi, le usanze, la nostra lotta, la nostra resilienza, la nostra resistenza al popolo italiano e chissà magari anche all'Europa magari un giorno. Ancora stiamo procedendo per diventare a tutti gli effetti un'associazione riconosciuta. I tempi burocratici sono abbastanza lunghi, però abbiamo tutta la volontà e la determinazione per raggiungere questo obiettivo. Ci tengo inoltre a dire che la nostra associazione è puramente apartitica, laica, noi non stiamo con nessun partito, non stiamo con nessuna religione. Dentro il nostro gruppo ci sono ragazzi e ragazze di qualsiasi orientamento politico e di qualsiasi orientamento religioso. Senti, ti dicevo, come vi siete costituiti poi in associazione e in base anche alle vostre professioni? Sì, in base alle nostre professioni, in base alle nostre già precedenti amicizie e conoscenze, abbiamo deciso insomma di unirci per creare un collettivo e raccoglierci. Adesso siamo all'interno del Giovani Palestinesi d'Italia, siamo circa 150 membri, 180 membri in tutta Italia, l'effettivo da nord a sud, da Valle d'Aosta, dove sta chiamando adesso Dalia, fino alla Sicilia, Palermo, Catania, quindi ricopriamo tutto il territorio nazionale. Naturalmente poi vengono anche degli studenti palestinesi qui in Italia e noi li accogliamo all'interno del Giovani Palestinesi d'Italia, dell'associazione. Molti vengono dalla Striscia di Gaza, altri vengono dai territori occupati, insomma siamo aperti a tantissimi progetti e aiutiamo anche, c'è da dire, la Palestina in maniera economica, tra virgolette. Ad esempio abbiamo fatto un progetto di consegna di tute anti-Covid in Palestina che abbiamo da poco concluso e quindi insomma, siamo attivi anche in questo senso. Senti, ma più in specifico, ci vuoi dire quali sono gli scopi, gli obiettivi che avete pensato e definito all'inizio della costituzione di questa associazione? Uno dei principali obiettivi è il portare qui in Italia e diffondere qui in Italia quella che è la causa palestinese, il messaggio di lotta della causa palestinese agli italiani, appunto sulla scia di quello che è stato durante gli anni 90 con il GUPS e con altre associazioni palestinesi che prima di noi hanno fatto questo percorso qui, far riconoscere quella che è la nostra terra, quella che è appunto la nostra causa, la nostra identità. Una questione che si pone per quasi tutti i giorni di seconda o successiva generazione è quella dei rapporti tra cultura del paese di origine e cultura del paese in cui si vive, dove per cultura intendo non solo costumi familiari, ma anche aspetti religiosi e politici. Ecco, vorrei chiedere quindi a Dalia, ti volevo appunto chiedere come sono i rapporti di voi giovani di seconda generazione con la cultura, non solo dei vostri genitori, ma in generale con la cultura delle persone più anziane. Guarda, questa è una domanda molto interessante perché è curioso. Noi di seconda generazione, come tutte le persone di seconda generazione di tutte le origini, abbiamo delle divergenze, dei conflitti, no? Con i nostri genitori piuttosto che con le persone che provengono dai nostri paesi di origine su tanti aspetti culturali, politici, sociali, eccetera. Però c'è un filo conduttore per quanto riguarda le persone palestinesi o di origine palestinese, che siamo tutti in qualche modo legati alla nostra terra, perché l'amore per la Palestina ci viene trasmesso da generazione in generazione, perché noi siamo un popolo che quasi non ha più niente, non ha più una terra, non ha punti di riferimento ormai. E quindi tantissime persone di seconda generazione, ormai i palestinesi che vivono in diaspora sono più di quelli che vivono in Palestina, quindi moltissime persone anche nate e cresciute all'estero non sono neanche mai state in Palestina. Però nonostante questo, noi siamo molto un popolo veramente legato alla nostra terra, legato soprattutto alla nostra causa e alla nostra lotta, che è una lotta ed è una causa che riguarda tutti, riguarda tutto il mondo, perché la Palestina è un punto, no, di incontro in cui si incontrano tutte le cause. È il punto di incontro dove si incontrano tutte le cause, tutte le persone si possono rispecchiare con la causa palestinese, perché è una causa che riguarda i diritti umani, è una causa che riguarda l'autodeterminazione dei popoli, è una causa che riguarda la violazione di diritti fondamentali, di diritti della libertà di espressione, della libertà di movimento, la lotta ai muri, alle frontiere. La Palestina è un paradigma, è tutto ciò che c'è di ingiusto in questo mondo, okay? Racchiude tutti gli aspetti di ingiustizia che ci sono nel mondo. E quindi noi dai nostri nonni che hanno vissuto la Nakba, la catastrofe nel 1948, ci è stato trasmesso questo amore per la Palestina, l'amore per la Palestina storica, quello che la Palestina era prima del 1948, la nostra cultura, la nostra civiltà, tutto quello che c'era prima e che stanno facendo di tutto per cancellare. Senti Daria, però volevo chiederti in particolare per quanto riguarda il discorso politico, cioè la prima generazione, diciamo, quella che esce dal 48, ha lottato sempre per il discorso dei due stati, no? Ecco, voi di seconda generazione, politicamente, siete su questo fronte, visto poi la situazione attuale, quasi di impossibilità, sembra, di poterlo fare, ma insomma, siete sempre dirigenti sui due stati o pensate a una soluzione diversa, un unico stato democratico? Ecco, volevo sapere questo, perché quando andai in Palestina, almeno lì i giovani che noi incontrammo, ci dissero che loro erano sul versante di lottare e auspicare la costituzione di uno Stato unico democratico, in cui appunto poter vivere tutti con uguali diritti che adesso non, invece i palestinesi non hanno, né quelli che vivono in Israele, né quelli che vivono in Cisgiordania. Ecco, voi giovani palestinesi d'Italia, su questo fronte cosa pensate? Guarda, quando ci fu nel 2017, quando fu incarcerata Ahed Tamimi, quella ragazzina che all'epoca era minorenne per aver schiaffeggiato un soldato israeliano, un giornalista su Internazionale scrisse queste parole: Ahed rappresenta la nuova generazione di palestinesi, ovvero quella che non crede più nella soluzione dei due stati e nei negoziati di pace, ma che è disposta a tutto per combattere per la propria libertà e per la libertà del proprio paese. La nuova generazione di palestinesi è variegata, nel senso che ognuno poi ha le sue opinioni politiche. Se dovessimo però pensare a un'opinione che a qualcosa che ci accomuna è la sfiducia, no? Nelle istituzioni internazionali, la fiducia negli accordi internazionali, nelle risoluzioni delle Nazioni Unite. Quello che ci accomuna è che siamo, la maggior parte di noi non pensiamo che sia possibile la soluzione dei due stati, non pensiamo che sia possibile, una soluzione di tra virgolette, pace, perché, insomma, abbiamo visto che comunque sono tutte state strategie fallimentari che in un modo o nell'altro comunque favorivano Israele, favorivano i nostri oppressori, e quando nel 93 abbiamo visto i nostri rappresentanti stringere la mano ai nostri oppressori che hanno provocato dei massacri, che hanno distrutto le nostre case. Moltissimi palestinesi si sono sentiti traditi dalle proprie istituzioni, si sono sentiti abbandonati e traditi, perché quelli sono accordi tra istituzioni, tra politici. Poi il popolo palestinese soffre e tutte le persone, la politica continua a fare dei test, fa dei giochi sulla pelle dei palestinesi, sulla nostra sofferenza, e quindi noi non crediamo più in tutto questo, noi vogliamo, non crediamo più neanche nei partiti politici tradizionali. Crediamo proprio che sia stato tutto fallimentare, che nessuno abbia giocato a nostro favore, e quindi siamo per unirci. Vogliamo un'unità nazionale, non vogliamo più questa divisione partitica, queste divisioni ideologiche, vogliamo unirci perché il nostro obiettivo è lo stesso, vogliamo la libertà per il popolo palestinese e della Palestina. Quindi stiamo cercando in tutti i modi di trovare delle innovazioni, di rinnovare il nostro linguaggio, rinnovare i nostri. Rinnovare il nostro modo di fare, rinnovare tutto, perché pensiamo che sia stato tutte le politiche vecchie sono state fallimentari, nessuno ci ha mai aiutati. Bene, per il momento ci fermiamo un attimo per un breve stacco musicale. كان الوضع بدو الرضع صار الوضع بدو الردع لكل اكيد بتحرر مستوطن بتلمس لكل مصاب حكيت الف كان الف راق بالهدار اللي عنام سلاح مطيب ببركوت اما لما المي يدي برجع الواقع كما دوس دوس كاليانوس Scatri Leo o al mapo, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Allora, riprendiamo e vorrei tornare un attimo a parlare con Dalia, perché tu prima ci hai detto che voi come generazione, insomma, vi sentite abbandonati, non credete più nei partiti tradizionali, cercate di rinnovare il vostro modo di fare. Ecco, vorrei che vi specificassi meglio, quindi che cosa credete, che cosa lottate, quali sono questi nuovi modi che pensate possono essere più di successo rispetto ai fallimenti di cui parlavi prima? Ma secondo noi, nuove generazioni, la lotta palestinese, per esempio, dovrebbe essere, e stiamo cercando di portarla avanti in questo modo, molto più inclusiva. Quindi includere tutte le realtà palestinesi, tutte le differenze religiose, etniche, di orientamento sessuale, di differenze di genere, perché spesso tante tematiche interne palestinesi, per esempio come la questione del patriarcato, sono sempre passate in secondo piano perché la lotta di liberazione nazionale è sempre stata la priorità e quindi si sono sempre divise queste lotte. Anche se in realtà la lotta palestinese ha una storia di partecipazione femminile alla resistenza e partecipazione politica molto, molto grande e che dura da tantissimo tempo. Per esempio, durante la prima intifada, il motto delle donne era: non esiste libertà della Palestina senza libertà della donna. E adesso si sta cercando, le nuove generazioni stanno cercando di riappropriarsi di questi motti che spesse volte sono stati visti da alcune parti del popolo palestinese come una. Cioè si separava, no, sempre la lotta di liberazione nazionale dalle lotte al patriarcato e l'uguaglianza di genere, eccetera. E adesso le ragazze, le nuove generazioni, anche i ragazzi, stanno cercando di compattarsi, di unirsi molto di più e di combattere, perché adesso il movimento femminista palestinese, per esempio delle Talaat, che è nato l'anno scorso, si combatte contro il patriarcato, per un'uguaglianza reale, sostanziale, ma e combatte soprattutto il colonialismo israeliano. Quindi è un movimento femminista anticoloniale, perché la nuova generazione palestinese, le femministe palestinesi reputano, pensano che il patriarcato palestinese sia anche rafforzato da Israele perché così gli fa comodo. E quindi i movimenti femministi, i movimenti LGBTQ+, sono molto presenti attualmente in Palestina e si stanno mobilitando assieme dando ovviamente sempre la priorità alla causa per la liberazione della Palestina. E adesso ci sono anche tantissimi studi sul pinkwashing, per esempio, perché Israele è sempre dipinto qui da noi in Occidente come l'unico paese democratico del Medio Oriente, inclusivo della comunità LGBTQ+ e che rispetta i diritti delle donne, e adesso i palestinesi della comunità, la comunità LGBTQ+ palestinese si sta ribellando a questa narrativa perché spiega che non è così. Non è vero che Israele è il paradiso degli omosessuali palestinesi, perché in realtà Israele, quando uccide, quando bombarda la striscia di Gaza, per esempio, non è che salva gli omosessuali, quando bombarda muoiono anche degli omosessuali e questa è la verità. Le restrizioni, i palestinesi della Cisgiordania e della striscia di Gaza non possono uscire da questi territori, non possono entrare in Israele, quindi è falso che le associazioni LGBTQ israeliane accolgono gli omosessuali perseguitati dalla società palestinese. Non è vero perché la libertà di movimento è limitata sia per i palestinesi eterosessuali uomini, sia per le donne, sia per gli omosessuali. E quindi la comunità palestinese si sta mobilitando anche contro tutto questo perché vuole cambiare la narrativa, vuole cambiare i pregiudizi, vuole cambiare questo approccio orientalista che l'Occidente ha verso il Medio Oriente e verso la Palestina in particolare, perché sostengono che sia tutto sia sempre stato tutto strumentalizzato, sia sempre stato tutto disumanizzante nei confronti dei palestinesi, che tutto venga giustificato, tutti i peggiori massacri contro i palestinesi vengono sempre giustificati dal fatto che Israele è una democrazia, che Israele protegge le minoranze LGBTQ+ e le donne palestinesi, cosa che non è affatto vera. In questo momento, per esempio, abbiamo il prigioniero politico palestinese Maher al-Ahraz, 92 giorni in sciopero della fame, sta morendo, sciopero della fame che dura da 92 giorni, e questo prigioniero è in detenzione amministrativa, vuol dire che è in prigione senza capo d'accusa, senza processo, senza nessun motivo. E tantissimi palestinesi si trovano in questa condizione, sia donne che uomini e anche minorenni. E quindi non si può nascondere tutto questo con la semplice giustificazione che comunque Israele è una democrazia, uno Stato che imprigiona le persone perché combattono, che combattono uno Stato che opprime, non può essere una democrazia. Certo, direi proprio che è un concetto contrario a quello che in realtà dovrebbe essere detto dello Stato di Israele, cioè che è uno Stato etnocratico e di apartheid. Esattamente. Comunque, vorrei passare a Karim. Ci sei, Karim? Sì, sono qua. Ok, senti, ti vorrei chiedere innanzitutto quali sono le vostre amicizie e quali sono i rapporti con i vostri coetanei italiani, cioè cosa pensano, come vi considerano in quanto palestinesi. Una bella domanda questa. Devo dire che qua in Italia i nostri coetanei ci sono abbastanza vicino, cioè nel senso che ci sostengono, abbiamo dei grandi legami con gli italiani, anche perché comunque la globalizzazione ha consentito questo tipo di processo, e c'è una grande apertura mentale da parte delle nuove generazioni italiane con quelle palestinesi, ma è una cosa che comunque è sempre stata così nel corso degli anni, diciamo. I palestinesi sono da sempre, o da diversi decenni, grandi amici degli italiani, c'è una grande amicizia che lega questi due paesi del Mediterraneo. Quindi assolutamente sì, ci siamo, io almeno esperienza personale, parlo per me e per mio fratello. Ci siamo trovati molto, molto bene sia in scuola che con le varie compagnie e anche nei gruppi sportivi con i nostri coetanei, allorquando abbiamo detto loro che siamo palestinesi, che veniamo da quella terra lì, da quelle condizioni lì, e abbiamo alle spalle questo grande dramma del nostro popolo. E questi nostri coetanei hanno abbracciato questo dramma, ci sono sempre stati vicini, condividendo le nostre posizioni, le nostre idee, supportandoci. E quindi è una cosa molto molto positiva. Certo che sì. E senti, in ultimo ti vorrei domandare un'altra questione. Cioè, sappiamo bene che diciamo, il problema, la questione viene sempre definita così, insomma, ma non è tale, del popolo palestinese viene volutamente ignorata. A noi pare esserci una crescente simpatia invece in Italia verso il popolo palestinese. Ecco, vorrei sapere, anche dopo quello che ci hai detto, Karim, se condividi questa nostra impressione. Allora, sì e no. Mi spiego. È vero, c'è una crescente simpatia, solidarietà da parte del popolo italiano, dell'Italia, della gente italiana, degli italiani, per i palestinesi, siano essi quelli che vivono qui in Italia, siano essi quelli che vivono in Palestina, e nella striscia di Gaza, appunto. C'è sempre questa vicinanza di cui anche parlavo poco fa, e anche sulla scia di quello che è avvenuto negli anni 80 e 90, i palestinesi hanno una grande fama qui in Italia, a livello professionale e intellettuale. Ci sono un sacco di palestinesi poeti, artisti, ci sono un sacco di palestinesi chirurghi, dottori, medici, dentisti, professori universitari. Quindi hanno una grande fama, gli italiani hanno un grande rispetto nei loro confronti. Diverso è, il caso politico, perché non posso scindere le due cose. La Palestina e politica sono purtroppo, o per fortuna, sono la stessa cosa. Quando si pronuncia la parola Palestina, già si prende una posizione politica. Solo essere palestinesi si fa politica. Quindi, non potendo scindere le due cose, devo dire, dobbiamo constatare che il governo, diversamente dalla popolazione, non è in alcun modo, allo stesso maniera, vicina al popolo palestinese e alla causa palestinese, specie i governi degli ultimi 2 decenni, per vari motivi. Diciamo che i governi che, tra virgolette, sono stati più vicini al popolo palestinese e alla causa palestinese sono governi degli anni 90, degli anni 80, con Craxi, Andreotti, che poi noi possiamo anche criticare le scelte politiche nazionali, che a mio modo di vedere, io collaboro con una redazione giornalistica che fa antimafia, sono stati il male di questo paese in quegli anni lì, ma a livello di politica estera, a livello di questione palestinese, si sono mossi in maniera molto, molto decisa, spesso sfidando anche quello che è l'impero occidentale, l'impero statunitense, perché il problema principale, il motivo per il quale gli ultimi governi, Prodi, Berlusconi, Letta, Renzi, Gentiloni, eccetera, eccetera, sono così, diciamo, apatici, non prendono posizione, a volte, se non quasi sempre, sono avversi al riconoscimento della causa palestinese e alla fine dell'occupazione, è perché dietro questi governi e dietro alla Repubblica Italiana c'è un potere sovranazionale, che è il potere, questo è il mio modo di vedere, il potere statunitense, il potere imperialista, che detta ordini e non consente all'Italia e ai vari governi che si succedono di poter riconoscere a livello politico lo Stato di Palestina e di poter mettere in atto alcune azioni politiche, alcuni provvedimenti politici che potrebbero facilitare il riconoscimento di quest'ultima. Quindi anche questo si nota, si riverbera anche a livello mediatico, soprattutto, come dicevi prima. Noi notiamo che di Palestina si parla poco o nulla, soprattutto negli ultimi anni, sui giornali, sulla TV e in radio. Voi siete un'eccezione, naturalmente. Si parla pochissimo perché, appunto, non si vuole contribuire a denunciare questo sistema criminale, questo paese colonialista, razzista, xenofobo, che è lo Stato di Israele, e quindi non si permette ai giornalisti, anche con la schiena dritta, di poter pubblicare articoli, di poter dire la loro. C'è una censura a livello massivo, spaventosa qui in Italia, della causa palestinese. Ogni volta che si prova a puntare il dito contro Israele, contro le politiche israeliane, che tutti noi siamo autorizzati, noi abbiamo il diritto di poter criticare le azioni di un governo. Ogni volta che si fa questo tipo di critica, si viene additati come antisemiti, che è la cosa più sbagliata che esista. Noi assolutamente non siamo in alcun modo antisemiti, perché significa essere anti noi stessi. Noi arabi, noi che parliamo arabo, siamo etnia semita. Quindi è proprio una contraddizione in termini, questa. Quindi, insomma, c'è questo zoccolo durissimo, che non si riesce a scalfire, di silenzio, di omertà, reticenze istituzionali, mediatiche, politiche, per quanto riguarda la causa palestinese. Questo zoccolo duro può essere distrutto, può essere abbattuto soltanto in un modo: denunciare, attivarsi, pubblicare notizie, condividerle, muoversi, mobilitarsi, che credo sia la chiave di tutto. Okay. No, volevo precisare che chiaramente tutti sappiamo l'Italia nell'Europa e quindi l'apatia, il fragoroso silenzio è anche di tutta l'Europa, insomma, e non solo. E quindi c'è veramente una patina che copre tutte poi le relazioni di cui te parlavi. Bene, a questo punto vorrei ringraziare Daria e Karim per aver Grazie a voi. Grazie a voi per l'opportunità. E Sì. raccomando agli ascoltatori di seguire, se possibile, se posso, un secondo, la nostra pagina Facebook e Instagram, Giovani Palestinesi d'Italia, di seguire le nostre attività, perché ci sono aggiornamenti, news, infografiche, un sacco di, appunto, iniziative quotidiane che noi proponiamo ai nostri follower. Quindi sarebbe una grande cosa se potessero seguirci, ecco. Sì, ora queste cose che hai detto poi noi le metteremo nel sito. E, vabbè, a questo punto vi salutiamo e diciamo comunque subito a chi ci ascolta che vi avremo presto e di nuovo ai nostri microfoni per parlarci di un'altra questione che ci interessa particolarmente, e cioè la situazione, le condizioni della diaspora palestinese nei paesi del Medio Oriente, in Europa, negli USA, insomma, e altro ancora. Quindi a questo punto un arrivederci, o meglio, risentirci a presto. Ciao a voi. Grazie. Arrivederci, grazie Ciao, mille. grazie mille. A Ciao. presto. Per la consueta rassegna musicale ascolterete Somos Sur, siamo al sud, dall'album Vengo del 2014, cantata da Ana Tijoux. Ana Tijoux è figlia di due esuli cileni fuggiti dal Cile in Francia dopo il colpo di Stato del 73. La canzone è interpretata insieme alla rapper palestinese Sadia Mansour, una canzone contro tutti gli imperialismi che non a caso unisce in una sola lotta America Latina e Palestina. Sadia Mansour si esibisce indossando un tradizionale abito palestinese e ha dichiarato che si considera parte di una intifada musicale contro l'occupazione della Palestina, il conservatorismo e l'oppressione delle donne. A seguire ascolterete Palestina dall'album Geografia, testo e musica di Lluís Gliach, cantautore spagnolo, autore di autentici inni di lotta e resistenza antifascista, notissimi in tutta la Spagna, sebbene composti in lingua catalana. Le prime parole di questa canzone dicono: il tuo nome è una rosa, il tuo nome Palestina, il tuo nome è una bellissima stella in Oriente, il tuo nome spera, il tuo nome una spina, il tuo preciso nome speculare che ci riflette. E per finire, in omaggio al Cile, vi facciamo ascoltare El Pueblo Unido degli Inti Illimani. Il nome di Inti Illimani è composto da due parole: Inti, dio del sole nella cultura inca, e Illimani, il nome di una cima della catena delle Ande in lingua aymara. Costretti all'esilio in conseguenza del golpe cileno del 1973, gli Inti Illimani vissero in Italia fino al 1988, quando poterono rientrare in patria, dove hanno proseguito l'attività musicale. E con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alla stessa ora. Inshallah! Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya mía. Levantarnos para decir ya basta. Caña América Latina se suba con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. Yo te quiero libre, Palestina. بعد الرضع صار الوضع بده الردع لكن السيد تحرر مستوطن بتلمت لكن يوصف بحكيات ألف كان ألف رقد الهدار الإعلام سلاح مطيب فبركوت أما لما ألمي يا دين برجع الواقع كما دوس دوس كاياروس Catrileo o al mapo, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Dels teus cants de pell bruna s'arrabassen els arbres com si així et desarrelessin el demà. Els teus fills els soterren quan encara somriuen esperant que així el teu ventre es torni un nen. Naixeran oliveres de destí mil·lenari perquè els ocells hi canti el teu nom que és coratge, el teu nom Palestina. Quan et nafren els braços l'odi esdevé feixisme colpejats pels que escarneixen llur passat. Seran les teves ales d'un vol que veuràs lliure si s'allunyen d'un mar que ens aveïna. Et cantem esperança, el teu nom és per vindre, el teu nom Palestina. Naixeran oliveres de destí mil·lenari perquè els ocells hi cantin el teu nom que és coratge, el teu nom Palestina. Seran les teves ales d'un vol que l'hauràs lliure, el teu